La storia e la memoria di Dino Pesole. Documenti, molti dei quali inediti, che hanno accompagnato per oltre un secolo le lotte sociali e sindacali nel nostro paese, dai giornali mazziniani, internazionalisti e anarchici, ai volantini diffusi nel 1890, quando ebbe inizio la tradizione del primo maggio, dalle vecchie e rare tessere socialiste e sindacali ai manoscritti di personaggi del calibro di Andrea Costa, Enrico Ferri, Argentina Altobelli, Ugo Oietti, Gaetano Salvemini, per arrivare poi ai verbali delle riunioni della CGIL nel 1948, quando si consumò la scissione sindacale, e finiamo col telegramma di solidarietà inviato da Italo Calvino a Giuseppe Di Vittorio per la posizione assunta sui fatti d'Ungheria. Tutti i documenti custoditi da tre archivi storici della CGIL che nell'autunno del 2012 sono stati esposti a Roma in una mostra allestita negli spazi di Porta Futuro e che ora compaiono nel volume Le carte del lavoro, un secolo di lotte sociali, sindacato e politica, a cura di Giuseppe Sircana con la collaborazione di Ilaria Romeo, appena pubblicato dai DS. Nella presentazione, curata da Claudio Di Bernardino, viene riportato per il suo significato evocativo il resoconto redatto da un sindacalista che venne inviato un primo maggio degli anni 50 in un piccolo centro della provincia di Roma. Ascoltiamolo. Partito da Roma col primo treno, sono giunto al paese verso le 8:15. Non appena la visione del grande viale, che si spinge fino alla piazza del paese lungo un mezzo chilometro, si è presentata tutta un'infioritura di archi, di bandierine da una parte all'altra della strada. I compagni lavoratori, specialmente i giovani, hanno lavorato tutta la notte per addobbare il paese. Un programma meraviglioso si è svolto per i festeggiamenti. Alle ore 9 il concerto locale, ricorrendo le strade del comune, ha rallegrato la cittadinanza al suono dei nostri inni. Alle ore 10 corsa ciclistica con vistosi premi. A mezzogiorno sparo di mortaretti e castagnole. Alle 15:30 merenda alla collina della stazione con a capo la banda e moltissime famiglie con i loro fagotti. Alle ore 18 comizio in piazza. Dopo il comizio, e cioè alle 19:15, danza di fronte al municipio, protrattasi fino a tarda sera. Alle ore 20:15 ho dovuto abbandonare il paese per fare ritorno a Roma. Ultimo treno valido per partire. Il comizio è stato riuscitissimo. La Lega dei Contadini era in piena efficienza. Questo primo maggio ha riaffratellato tra i lavoratori molti malintesi. Allora, buonasera e benvenuto allo storico Giuseppe Sircana che, come dicevamo poc'anzi, ha curato il volume. Buonasera. Buonasera. Partiamo proprio insieme da questo dettagliato resoconto che troviamo nella introduzione al volume. Vi possiamo cogliere passione, entusiasmo, anche una certa enfasi nel racconto. Tutti sentimenti che forse sembrano appartenere proprio a un'altra epoca. Che dice? Beh, sicuramente è così. Sono parole che evocano un paesaggio scomparso, possono anche apparire ingenue. Si riferiscono a un periodo, gli anni 50, in cui la celebrazione del primo maggio era molto sentita, al punto che in tutti i capoluoghi di provincia la Camera del Lavoro provvedeva a mandare dei sindacalisti nei vari centri della provincia. Ecco, per esempio, per riferirsi a Roma, tutti i castelli, Albano, Genzano, Velletri, c'era un comizio dove spesso era lo stesso sindacalista che si muoveva, faceva un comizio ad Albano alle 9, un'ora più tardi andava nel paese vicino e così via. E naturalmente questa, la giornata del primo maggio, aveva uno svolgimento che prevedeva quelle cose che sono state lette. Ecco, ma al di là di questo, che comunque è un aspetto molto interessante anche dal punto di vista proprio storico del costume, sì, cosa emerge da questo dettagliato libro che riporta appunto documenti molto interessanti? Ce ne sono alcuni in particolare che vale la pena di segnalare? Direi di sì, secondo lei? Sì, ecco, sempre per rimanere sul primo maggio, abbiamo dei manifestini rarissimi, unici, che si riferiscono appunto, come è stato detto anche nella presentazione, al 1890, è la prima volta che è stato celebrato nel mondo il primo maggio. Molto importante, ecco, tra quelli magari non citati, è un carteggio, è stato citato Salvemini, sì, un autografo di Salvemini, ma la cosa importante, ecco, questo per esempio era un documento che non è stato esposto alla mostra, perché si riferisce alla tesi di laurea di uno storico, Paolo Basevi, che ha raccolto poi tutti questi materiali, molti dei quali sono stati messi in questo libro, che aveva inviato la propria tesi di laurea a Gaetano Salvemini. Era una tesi sul sindacalismo rivoluzionario. Salvemini gliel'ha restituita con delle note pagina per pagina. Quando abbiamo fatto la mostra non sapevamo ancora che tra le carte c'era questa lettera di Salvemini a Baseri, in cui è una lettera del 1956. E cosa dice questa lettera? Appunto, Salvemini muore nel 1957, quindi era più di 80 anni. Si sa che lui in gioventù aveva avuto polemiche molto, molto forti con i sindacalisti rivoluzionari, con la corrente rivoluzionaria del Partito Socialista. Ecco, colpiscono i suoi giudizi molto pesanti all'indirizzo dei principali esponenti di questa corrente politica, perché Antonio Leone, Enrico Ferri, insomma un po' tutti questi esponenti che vengono ridicolizzati. Insomma, lui dice: il tale è andato ad affogarsi a Fiume con D'Annunzio, il tale è diventato assistente di una soprano. Insomma, irride, per non dire poi è molto sarcastico, nei confronti di qualcuno che poi era diventato fascista. Appunto, si tratta di Antonio Labriola, Enrico Leone, Alceste De Ambris, Paolo Rano. Erano insomma giudizi molto pesanti. Ecco, stupisce perché nel 1956, quando lui si era ritirato nella pace di Capo di Sorrento, aveva ancora questo, possiamo, non so come definirlo, risentimento nei confronti di una corrente politica che lui aveva irriso già allora, quando era giovane, che sosteneva, infatti nei suoi scritti sulla questione meridionale dice: io con questi qua neanche perdo tempo a discutere. Ecco, tutto il volume, così come la mostra, ha come punto essenziale di riferimento il lavoro, le carte del lavoro, infatti, un secolo di lotte sociali, sindacato e politica. Un tema che accompagna l'intero tragitto dalla fondazione della CGIL fino, se vogliamo, ai nostri tempi. Ecco, ma questo tema all'interno dello sviluppo storico e sociale del nostro paese, che evoluzione ha attraverso i documenti che voi presentate nel volume? Ecco, intanto ha fatto riferimento alla fondazione della CGIL nel CGDL, Confederazione Generale del Lavoro, nel 1906. Ecco, tra i documenti noi abbiamo la tessera di partecipazione a quel primo congresso. L'evoluzione, da questo punto di vista, ci possono essere tante chiavi di lettura. E per esempio il rapporto tra il movimento operaio e lo Stato. Noi mettiamo un manifestino anarchico in occasione del compleanno di Francesco Crispi, in cui gli anarchici, questo gruppo anarchico, augura tutto il male possibile al più gran farabutto d'Italia, che naturalmente secondo gli anarchici era lo stesso Crispi. E poi abbiamo, in un contesto tutto diverso, la partecipazione attiva alla mobilitazione contro il terrorismo, per esempio durante il caso Moro, poi con l'uccisione di Guido Rossa. E quindi anche questo, ecco, per esempio, non a caso l'ultimo documento che pubblichiamo è la costituzione del sindacato di polizia. Quindi ecco, l'evoluzione di questo rapporto tra movimento operaio, inteso nel suo complesso, e istituzioni, anche qui naturalmente si va dallo Stato liberale al fascismo, alla Repubblica Democratica, però anche se poi andiamo negli anni 50 e 60, i rapporti tra movimento operaio e Stato non è che sono stati tranquilli. Però ecco, per esempio, questo può essere una chiave di lettura che è abbastanza documentata, ed è documentata anche, diciamo così, anche se il libro privilegia un po' il filone che va dalla Confederazione del Lavoro di Rigola e D'Aragona alla CGIL di Lame e Di Vittorio. Poi diamo spazio un po' a tutte le componenti, come è stato detto nella presentazione, non solo quelle più antiche, mazziniane, garibaldine, internazionaliste, anarchiche, ma anche poi quelle cattoliche, ai movimenti extraparlamentari. Quindi, come scrive lei stesso nell'introduzione, non si tratta di un catalogo quanto di un libro di storia, un libro di storia che ci apre uno spaccato di grande interesse dal punto di vista storico soprattutto. Diciamo che alcuni documenti esprimano, anche diano il senso, come quello che è stato letto per quanto riguarda il primo maggio, da soli siano sufficienti a inquadrare un periodo. Era una lettura, un rapporto che trasmetteva dava l'idea dei valori dominanti allora in un certo ambito, e così vediamo via via documenti che parlano da soli. Anche leggere per esempio i verbali della segreteria CGIL durante il sequestro Moro, oppure quelli che nelle riunioni del direttivo della CGIL prima della scissione sindacale. Così, ecco, tra i documenti, adesso mi viene in mente, tra i documenti curiosi, sempre nel 48, poco prima della scissione sindacale, noi pubblichiamo un documento che è una richiesta della Camera del Lavoro di Sondrio alla CGIL nazionale, in cui viene detto come ci dobbiamo regolare, perché alcune suore che lavorano in una casa di cura hanno chiesto l'iscrizione alla CGIL. Buona serata. Buona serata.